scena di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola. Tornano quest'estate gli incontri con i grandi protagonisti della musica, del cinema, dei libri, della cultura, gli incontri di Voci in Scena. Nasce a Roma nel 1973, esordisce giovanissima nel mondo dello spettacolo prestando la voce per il finto jingle di Cacao Meravigliao, sponsor immaginario del programma televisivo di Renzo Arbore Indietro Tutta. La sua carriera vera però inizia dopo il liceo, gli studi di recitazione, la radio con Enrico Vaime e dal 1998 la TV. Il suo primo personaggio è l'Argentina nella trasmissione Macao. Ma il primo vero successo arriva con la Jalapas Band. Nel 2000 entra nel cast di Mai Dire Gol. Da lì tante trasmissioni televisive, compreso un festival di Sanremo nel 2004 e alcuni show di cui è mattatrice assoluta, come Nessun Dorma e Non Perdiamoci di Vista, ma anche Zelig e la fiction Maria Montessori Una Vita per i Bambini. Recita anche al cinema insieme a Aldo, Giovanni e Giacomo e con registi come Carlo Mazzacurati, Maria Sole Tognazzi, Fausto Brizzi, Luca Miniero, Carlo Verdone e il marito Riccardo Milani. Nel 2011 riceve il David di Donatello come miglior attrice protagonista per Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno. L'abbiamo intervistata al Taormina Film Fest, dove ha ricevuto il premio Taormina Arte Award e ha incontrato centinaia di studenti. Lei è Paola Cortellesi. Mi dà gioia, è una cosa che mi dà una grandissima gioia, perché vogliono sapere, perché sono curiosi, sono preparati sul mio mestiere, vengono a vedere cosa ho fatto e sanno esattamente, addirittura citano cose che avevo dimenticato. E sono preparatissimi e hanno proprio voglia, come dicevi tu, hanno sete di sapere ed è bellissimo, non hanno avuto tempo di annoiarsi evidentemente e sono molto curiosi, coltivano la curiosità. Non male, non male, è il nostro maggiordomo, ama stupire quando entra in scena. Vieni caro, portiamo i canederli ai nostri ospiti. Perché il maggiordomo è avvoltolato nel tappeto? Perché è persiano, Che succede? Ma niente, starà sbattendo il tappeto, che è una cosa normale. Succede anche a casa vostra, no? Sì, ma non col maggiordomo dentro. Dipende dal maggiordomo, amore. Ascolta. Ce ne sono di vari modelli. Se mi rovini questa serata, io ti rispedisco in prigione. Ha detto prigione? Capito? Io ho sentito piccione. Piccione? Nei canederli? A me merdo padre, a me merdo figlio. È napoletano? Rumeno, ama cantare. E non era persiano? Anticamente persiano, secondo gli attuali confini rumeno, di fatto. In questo periodo tu sei passata dallo schermo ai donna in una settimana al Festival di Taormina, che è peraltro dedicato alle donne. Sì. Quindi, Women Power. E hai appena, qualche giorno fa, hai dichiarato ci vorrebbero più ruoli femminili, sì, nel cinema italiano, forse anche in televisione. Spiegami un po' questa cosa. Ah, ci vorrebbero più ruoli femminili da mattatrici, da protagoniste, perché si scrive sempre pensando al protagonista maschile con una compagna femminile. Mi chiedo perché non capiti il contrario. Per farlo capitare devi scriverti un film da solo. Oppure insomma capita una volta su 100, ma insomma su tante. E perciò insomma è bello che si parli di donne. Il mondo femminile è ricco di cose, non si parla, ahimè, si parla soltanto di donne ed è giusto che se ne parli, a volte purtroppo, per parlare di temi drammatici come appunto come il femminicidio, come la violenza che le donne subiscono, e questo è un fatto, ma le donne possono, e quindi anche nel cinema, anche nei racconti che si fanno sulle donne, mi è venuto in mente questo perché ho collaborato allo spettacolo corale, che poi è diventato invece uno spettacolo teatrale vero e proprio, di Serena Dandini, Ferite a Morte, ed è stata un'occasione per parlare di donne. Serena mi diceva: non si parla di donne, non si parla di questo tema, che è un tema assolutamente drammatico. Questa è una cosa. Per quanto invece riguarda appunto il cinema popolare, Si può parlare di donne, si può parlare anche in altro modo, si può parlare anche di temi seri legati alle donne, che non siano necessariamente madri in lacrime o mogli vessate, o si può parlare, oppure si può parlare di del mondo femminile, ma parlarne con insomma affrontando tutto questo con un linguaggio ironico, e lo si può fare nella commedia. A me piace farlo, mi chiedo perché non lo facciano in tanti. Oh, Alice, ma che c'hai? C'ho bisogno di un po' d'aria. Ma te senti male? No, no, cioè sì. Senti, Giulio, è stato tanto bello l'altra sera che ci siamo baciati. È stato proprio tanto bello. Però non si può andare avanti. Cosa? È stato bello, perché non si può andare avanti? Non ho capito. Perché non si può andare avanti? Perché tu mi sei simpatico, mi piaci. Ma tanto mi piace, proprio tanto. Eppure te mi piace. Però non... Io in questo momento una storia non me la posso proprio permettere, capito? Non voglio stare male io, soprattutto non voglio stare male te. Ma chi sta male? Io non sto male. Adesso. Ma poi? Ho capito, poi quando sarà uno ci pensa, no? Che ne sai poi però? Allora, nel dubbio... Non te posso spiegare, Giulio, dai, non te posso spiegare. C'è poco da spiegare, no? Tutto a posto. Sicuro? Certo, figurati. Sto benissimo ora. Tu hai detto, a meno che uno non si scriva un film da solo, però io ho letto che tu stai scrivendo, no, no, vero? No, l'ho scritto e l'abbiamo girato. Hai già fatto? Già fatto, l'ho scritto e l'abbiamo, io me lo sono scritto. Appunto, tu hai fatto, tu hai dato, ti sei scritta da sola. Io l'ho scritto e l'abbiamo girato, no, ma è una cosa che mi hanno dato la possibilità di fare, quindi sono contenta, e che anche mi sono data la possibilità di fare, perché no, infatti non l'ho fatto a 20 anni, lo faccio adesso. È una cosa... Questo film che uscirà a novembre, che si chiama Scusate se esisto, è la storia di una donna, appunto il tema, vedi, poi torniamo lì, è quello di donne che, cioè, la disparità tra il mondo maschile e il mondo femminile è sempre quella, e si parla di un architetto, questa donna che interpreto, che si chiama Serena, che è una, fa parte dell'eccellenza italiana, che se ne va all'estero, che invece a un certo punto è un architetto molto bravo, che a un certo punto decide di tornare nel proprio paese per cercare un posto di lavoro consono a quella che è la sua preparazione, non lo trova perché c'è un problema, e poi quando si tratta di occupare ruoli dirigenziali in qualche modo, comunque da leader, ci si pensa 1000 volte prima di dare questo ruolo ad una donna piuttosto che a un uomo, perché si pensa sempre l'uomo più capace di affrontare, di essere il frontman, diciamo, come nelle band. Poi dietro c'è sempre una grande donna. Ecco, a me piace pensare che invece questa sia una situazione che si possa rivoltare. In questo film che ho scritto insieme a Giulia Calenda, insieme a Furio Andreotti, con la regia di Riccardo Milani, che è anche mio marito, abbiamo fatto tutto in famiglia, e con Raul Bova al mio fianco, abbiamo raccontato di una donna che torna in Italia, che ha molte difficoltà, e che pur, è una commedia naturalmente, e che pur di ottenere il posto che le spetta, e pur di fare, di costruire a cui lei tiene e che farebbe benissimo a moltissime persone, si finge qualcos'altro. Scopriremo, però insomma si inventa uno stratagemma, addirittura insomma credo illegale, per cercare di ottenere ciò che le spetta, e ciò che spetta a molti altri, cioè in particolare alle persone a cui questa ristrutturazione, quindi queste migliorie erano destinate. Nel frattempo sta venendo giù il finimondo. Senta un po', ma lei che ha capito prima, scusi? Che ha capito? Che sono una mignotta, per caso? Veramente hanno capito tutti. Ma tutti chi? Se i soffitti sono come le pareti, ha capito tutto il condominio, scusi. Guardi che il messaggio che ha sentito è di una donna che mi sta perseguitando perché tempo fa ho dovuto licenziare il marito. Ma mi guardi bene, ma come le viene in mente? Ma le sembro una battona, le sembro? Le sembro una battona! Per sua informazione, io risano aziende sull'orlo del disastro, va bene? E a volte mi chiamano anche per licenziare, sì. Quindi lei è una tagliatrice di testa? Esatto. Chi chiedo scusa dell'equivoco, chiedo perdono, scusi. Però lei la faccia da tagliatrice tedesca proprio non ce l'ha. Ma perché invece da mignotta sì. Hai citato la crisi, periodi difficili. Questo è stato un anno difficile per il cinema italiano. Pochi film italiani, dopo tanti anni invece di commedie fortissime, quest'anno sono riusciti a sfondare. Grazie anche a te un film è riuscito a piazzarsi bene al botteghino. Insomma, è importante anche la presenza di attori forti. Tu me la vedi la prossima stagione? Ma guarda, c'è meno gente che va al cinema, però per le determinate commedie sono andate bene. Checco Zalone ha ottenuto un successo mai visto e non se ne parla, e mi dà fastidio e mi dispiace che il cinema, che il gota del cinema italiano ignori il fatto che Checco Zalone abbia fatto questi incassi, perché poi tutti beneficiamo degli incassi di questo grandissimo mattatore che è Checco Zalone. Detto ciò, per quanto mi riguarda, nel mio piccolissimo ho partecipato a due commedie che sono un boss in salotto e Sotto una buona stella con Carlo Verdone, e il primo era di Luca Miniero con Rocco Papaleo. Sono il primo e il terzo incasso del 2014. Questo mi fa piacere, sono delle commedie belle secondo me, altrimenti non le avrei fatte. Poi chiaramente ci sarà chi la pensa diversamente, però insomma sono due commedie belle, ben fatte, fatte da professionisti, e penso a tutti i reparti, quindi dagli attori agli sceneggiatori eccetera, e ce ne sono tantissime altre che hanno fatto una bellissima figura. Perciò il cinema italiano è in buona salute, senza parlare di tutti i premi che abbiamo vinto, premi internazionali, a cominciare dall'Oscar a Sorrentino, dai premi vinti a Venezia, al Festival di Roma, a Cannes. Stiamo facendo una bellissima figura anche all'estero. Dunque il cinema è in buona salute, bisognerebbe dargli maggiore importanza, bisognerebbe che noi dessimo maggiore importanza e lo facessimo tornare ad essere l'industria forte che era prima, che era insomma negli anni del dopoguerra. Ed è tutto per questo Voci in Scena con Paola Cortellesi. Ci ritroviamo domani alla stessa ora.